Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 24 aprile 2015, ISO Tractor, il mezzo agricolo del futuro, parla Emiliano. Lo avevano chiamato il trattore del futuro e lo avevano presentato nel novembre 2012 ad EIMA International a Bologna. Ora le soluzioni che le 7 aziende coinvolte nel progetto ISO Tractor hanno messo a punto sono entrate nelle linee produttive di diverse grandi case del settore macchine agricole in Italia e nel mondo. Tra le soluzioni messe a punto dalle aziende emiliane, anzi reggiane, si segnala ad esempio il dispositivo antiribaltamento intelligente, ma anche il sistema di gestione dell'erogazione degli agrofarmaci, che consente di usare meno prodotto, riducendo costi e impatto ambientale. Fin qui la notizia del 24 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Il progetto ISO Tractor è nato nel 2010 grazie al bando regionale dai distretti produttivi ai distretti tecnologici e coinvolge 7 imprese della meccanica agricola della zona di Reggio Emilia. Andrea Rocchi è Electronic Design Manager di Valvoil, una delle aziende coinvolte. L'ISO Tractor, diciamo, è un laboratorio mobile, noi lo chiamiamo, per studiare il trattore agricolo della prossima generazione, il trattore agricolo del futuro, diciamo così. Tutto nasce dall'ISOBUS. L'ISOBUS è un protocollo di comunicazione per far dialogare tra loro il trattore e gli attrezzi, di modo che posso collegare il trattore di una marca all'attrezzo di un'altra magari. Diciamo, vogliamo da un lato renderlo più semplice il trattore. È vero che il trattore sarà sempre più complicato come macchina, avrà più elettronica, più sensori, più motori elettrici, però lo vogliamo rendere più semplice per l'utilizzatore. Un altro degli obiettivi del progetto è quello di rendere il trattore più sicuro. Ad esempio, una delle cose che stiamo studiando sono dei sensori installati sul trattore, avvertono l'operatore quando qualche pezzo sta per rompersi. Un altro tema sempre riguardo alla sicurezza è quello di prevenire uno degli incidenti più comuni che capita con i trattori, che è quello di il ribaltamento. Stiamo studiando anche qui dei sensori, degli accelerometri che collegati ad altri sensori avvertono quando si sta facendo una manovra potenzialmente pericolosa. Addirittura in futuro potranno evitarla questa manovra o correggerla, cioè prendere il volante al posto dell'operatore per prevenire questo ribaltamento. E il terzo tema è quello di avere un trattore comunque più ecologico, combinando le tecnologie del GPS, il navigatore satellitare che abbiamo tutti in macchina, con quelle dei sensori a bordo del trattore. Vorremmo arrivare al punto di, ad esempio, lavorare la singola pianticella del campo in maniera personalizzata, quindi risparmiando da un lato certo denaro, ma anche inquinando meno. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.